Nazareth, potete scriverci sopra le pareti, chi s'accontenta, gode. Nessuno mai a Nazareth ha goduto tanto come Giuseppe, Maria e Gesù Cristo. In Egitto devono fuggire perché Erode, geloso di quel bambino, re del cielo e della terra, lo vuol disfare. Giuseppe e Maria portano il bimbo in Egitto. E nell'Egitto, in esilio, senza conoscenze, ancora quel programma di vita. Chi s'accontenta, gode. Nessuno in Egitto godette tanto mai quanto Giuseppe in esilio, Maria in esilio e Gesù Cristo, bambino in esilio. Mai nessuno. Sulla porta della casa di Nazareth scrivetevi pure chi s'accontenta, gode. Giuseppe, Maria e Gesù sono pieni di Dio. Manca niente. A chi Dio basta, tutto basta. A chi Dio non basta, niente basta. E pensate che persino il dolore ha un aspetto piacevole quando si è pieni di Dio. Perché Lui mette le sue spalle sotto le nostre croci, le porta a Lui a nome nostro, quando viviamo con Lui. A volte ci affatichiamo la testa, ci arrovelliamo il cervello, corriamo rischio di esaurirci perché non ci fidiamo di Dio, ma dell'avvocato, del medico, del farmacista, del commercialista, del ragioniere, di quel signore, quell'amico, quel compagno. Oh. Non disprezziamo queste cose, ma non sostituiamole mai a Dio. L'uomo si agita, ma è Dio che lo conduce. Quanto ci agitiamo a volte, ma dici un paternoster, chiama in aiuto Dio, vedrai quanto meno ti agiterai e come riuscirai bene. Quasi ci fosse uno che davanti a te ti segna la strada, ti insegna se firmare o non firmare quel contratto. Fidati di Dio, a chi Dio basta, tutto basta. Sono stati di quelli che quando hanno saputo che io stavo per fondare un'opera in obbedienza ai miei superiori, alcune persone andarono a dire al vescovo Urbani, eccellenza, padre Silvestrelli è destinato al fallimento economico, certamente, perché non ha mezzi. Però a me aveva detto quel vescovo, fidati di Dio, abbi fede nella provvidenza. Non avevo un fazzoletto di terra e qui la provvidenza mi aveva preparato il più bel prato e soldi. Mi ha chiesto quanti ne avevo. Avevo ricevuto 5.000 lire da uno di voi. Che cosa? Frattanto, mi fece un sorriso Urbani e mi disse la provvidenza, fidati e fidati fino in fondo, mi ripeté sull'uscio della stanza degli udienze, aprendomi e chiudendo l'uscio, ti raccomando, fidati sino in fondo. Perché non ci fidiamo di Dio? Che sbaglio! Lasciamoci guidare. Lui non ha fondo. E la nostra anima ha bisogno di attaccarsi a un essere che non ha fondo. E chi è quest'essere che non ha fondo? Il fondo c'è anche l'oceano. Solo Dio non ha fondo. La nostra anima ha bisogno di attaccarsi a un essere che non ha fondo, che non ha fine, che non ha termine. Questi è Dio benedetto. Gesù, fattosi uomo come noi, Dio è Gesù. Maria, sua e nostra madre. Giuseppe, suo e nostro padre. Ecco, voi sentite la presenza di Dio? Ma sentitela sempre dentro di voi. Anche quando vi pigliasse una certa inquietudine, un'altra luce che si accende dentro di te, una spia benedetta, benefica, che dice: dai, rinnova la tua fiducia in Dio, tornerai sereno subito. C'è buio nella tua stanza, spalanca le finestre a quel Dio che ha creato il sole, le stelle, e ti ha creato il cuore, l'anima, la vita. Questa esperienza l'abbiamo fatta nei giorni scorsi. Le lacrime che io ho raccolto ieri erano tutte lacrime di gioia. A volte c'è bisogno di esplodere e non c'è nulla che proprio riveli il profondo del nostro essere quanto il versare le lacrime. Felici lacrime, quelle che ci fanno sperimentare la dolcissima presenza di Dio.